Sì, iniziamo dalle morti sul lavoro, come dicevamo nei titoli questa mattina, anzi la notte scorsa, intorno alle 3 di notte c'è stato un gravissimo incidente a Porto Marghera, sono morti 2 operai. Ci colleghiamo quindi con Venezia, Claudio Pasqualetto, che cosa è successo? Ma è successo che durante le operazioni di pulizia della stiva di una nave, 2 operai entrati appunto per pulire le stive di questa nave sono rimasti soffocati dalla carenza totale di ossigeno che c'era all'interno della stiva. La nave si chiama la World Trader, era attraccata alle banchine del centro intermodale adriatico, aveva un carico di soia che era stato scaricato ieri. Nel corso della notte 2 operai sono entrati nella stiva per ripulire gli ultimi residui di soia. Evidentemente l'effetto della soia rimasta con l'acqua della pioggia caduta durante la notte ha bruciato l'ossigeno all'interno della stiva. Per primo è sceso dentro Paolo Ferrara, 47 anni, di Pontelongo, Padova, dipendente di una ditta la Ecologistica che effettua lavori di questo tipo. Si è sentito male ed è svenuto e in suo soccorso è entrato nella stiva Denis Zanon, 39 anni, di Mestre, dipendente della nuova compagnia lavoratori portuali, e anche lui è svenuto. C'è stato un ulteriore tentativo di soccorso da parte di altri 2 lavoratori che però si sono sentiti male e sono riusciti a risalire. Pare che in questa fase si sia ricorso anche ad una bombola di ossigeno in dotazione alla nave, che però era vuota, e durante queste operazioni un membro dell'equipaggio della nave, un marinaio rumeno, è rimasto in qualche modo intossicato e adesso è ricoverato all'ospedale di Mestre. Questa in grandi linee è la dinamica così come è emerso finora. Adesso comunque spetterà alla Procura della Repubblica, che ha già aperto un'inchiesta, a accertare esattamente come sono andati i fatti. E un'inchiesta è stata annunciata anche dal viceministro dei trasporti Cesare De Piccoli, intervenuto fra i primi sul posto in quanto veneziano e quindi ha potuto arrivare quasi subito sul posto. Grazie Claudio Pasqualetto per questi aggiornamenti. Tra l'altro i sindacati hanno chiesto ai lavoratori portuali di bloccare tutti i porti, ma sentiamo la reazione degli operai nelle parole di Toni Cappiello, responsabile del porto Filt CGL, intervistato da Valentina Furlanetto. Immediatamente il turno di lavoro del terminal del centro intermodale adriatico si è fermato, poi erano le 3 della notte, quindi poi man mano con gli altri turni si sono fermati tutti quanti, si è fermato tutto il porto di Venezia. Noi chiediamo che ci sia una reale insomma, attenzione alla sicurezza che sia pratica, cioè questo paese è pieno di leggi, questo paese è pieno di ordinanze, poi tutte queste cose qui quando si arriva nel momento della nave, della banchina, spesso per fretta, perché bisogna far presto, perché bisogna scaricare, perché c'è un'altra nave che aspetta in rada, che quindi spende soldi di soste, salta tutto, ecco, e quindi c'è un'operatività che diventa pericolosa. Tornando a questo caso, che cosa non ha funzionato? Le procedure vietano qualsiasi operazione in stiva finché l'ossigeno non arriva al 17%. Qui evidentemente era diversa la situazione. Com'è stato possibile? È lì in qualche maniera ha sbagliato il comando nave o ha sbagliato insomma gli operatori del terminal, non si scappa, insomma, cioè qualcuno dice si può cominciare a lavorare, aprono il portellone e si può cominciare a lavorare. Allora non mi risulta che siamo nel 2008, insomma, sia stata calata nessuna sonda per andare sostanzialmente a controllare insomma quali erano le condizioni dell'area, e credo che insomma questa sia una cosa possibilissima insomma al giorno d'oggi. Le risulta che ci fosse anche una bombola d'ossigeno che però era scarica? I laboratori mi dicono sì. Avrebbe cambiato le cose? Sembra che uno dei 2 fosse ancora comunque insomma che si muovesse, insomma, ecco, non era proprio morto. Può essere che magari in quel caso lì qualcosa si riusciva a fare. E naturalmente la presenza o meno di questa bombola di ossigeno fa ricordare la vicenda anche degli operai della Thyssen di Torino, dove, lo ricordiamo, sono morti 7 operai anche perché gli estintori non funzionavano. E proprio per protestare contro quanto accaduto a Porto Marghera e ricordando anche la vicenda Thyssen, i sindacati Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti hanno indetto uno sciopero immediato in tutti i porti italiani. Le modalità verranno definite naturalmente a livello locale. Subito gli operai dello stesso Porto Marghera hanno bloccato le attività e quindi al momento Porto Marghera non sta operando.